Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, avrete riconosciuto le note del valzer di Verdi che dominano il film di Visconti tratto dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. E proprio del Gattopardo parliamo, anzi del suo autore, del principe, lui stesso un Gattopardo, che troviamo nel libro di Salvatore Silvano Nigro, Il principe Fulvo, è pubblicato da Sellerio, 160 pagine, 13 euro. Nigro è un grande italianista, studioso dei nostri classici, attualmente insegna all'Università IULM di Milano e ha dedicato la sua ultima fatica appunto al principe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo. Questo libro raccoglie una serie di interventi precedenti svolte in molte prestigiose università straniere, qui rielaborate per dare un quadro completo e organico di una personalità molto complessa, quale fu quella di Tomasi, un principe coltissimo, autore di un capolavoro di cui non poté gustare il successo e di pochi altri scritti. Ma sentiamo da Nigro che aspetti emergono sull'autore che ha studiato. Buongiorno a Salvatore Silvano Nigro. Eccomi qua, buongiorno. Allora, Salvatore Nigro, lei ha scritto questo libro sul principe Tomasi di Lampedusa. Il libro inizia con un periodo anteriore a quello nel quale il principe scrisse il Gattopardo, si parla dei rapporti con i Piccolo e ci sono riferimenti anche a scritti e interventi di Tomasi che, come lei spiega, potrebbero formare un'opera a sé, prima e dietro il Gattopardo, lei scrive. Allora, che Tomasi emerge da questi scritti pre-Gattopardo? Tomasi che andava in giro per l'Europa e che scriveva ai cugini Piccolo, ma non solo a loro, ma anche ad altri amici, era un personaggio che è rimasto finora del tutto sconosciuto, perché queste lettere non le aveva mai lette nessuno, e sono delle lettere in cui lui si dimostra come un grande burlone e si firma con il soprannome Il Mostro. In effetti lui costruisce queste lettere come se fossero un romanzo alla Dickens, soprattutto il ciclo Pickwick, perché parla di personaggi che si riunivano a Palermo in un centro culturale dove si dilettavano di fare pettegolezzo, di organizzare sedute spiritiche, cose del genere, e lui dall'alto dell'Europa scrive a loro e dice: beh, credete di essere delle tigre, siete soltanto dei gatti che imitate le tigre, e si diverte a prenderli in giro. Quindi è una specie di romanzo alla Dickens che costruisce giorno dopo giorno. Un altro autore di cui ricorre il nome nel suo libro a questo proposito è quello di Chesterton. Sì, lui era un grande lettore di Chesterton e lui si identificava con lo stesso Chesterton anche per un motivo di stazza. Lui cerca tutta una serie di scrittori che avessero dimensioni enormi, perché lui in quegli anni era veramente abbondante. In questi scritti emergono anche alcune sue tendenze di carattere politico, un atteggiamento che poi varierà col tempo, soprattutto per quello che riguarda il rapporto col fascismo. Dunque lui negli anni giovanili, ma non soltanto lui, anche i cugini Piccolo e tutta la famiglia Lampedusa erano legati al fascismo, e rimane fascista fino al 38. Sarà il momento in cui verranno promulgate le leggi razziali che lui cambia atteggiamento, anzi si sente in colpa, e dentro il Gattopardo ci sono una serie di allusioni al suo allontanamento dal fascismo, e sono proprio le leggi razziali che lo turbano. Basta pensare che la moglie scrive una lettera al marito e gli dice: mi vergogno di essere ariana. Veniamo al Gattopardo. A un certo punto lei scrive, parlando di Calogero Sedara, che questo è un po' il simbolo dello smarrimento dell'equilibrio tra etica ed estetica, sul quale è fondata la civiltà delle buone maniere. Ecco, che cosa ha rappresentato questo equilibrio per il principe Tomasi? Per il principe Tomasi questo equilibrio era già stato rotto da parecchio tempo. Dentro il Gattopardo lui si diverte ad analizzare questa rottura. Per esempio, ecco, la stessa Angelica non conosce le belle maniere, a tavola si comporta come un animaletto, è bellissimo animaletto, ma sembra animaletto. Il Sedara si mette gli abiti da sera, ma poi quando si addormenta sulla poltrona si addormenta in maniera scomposta, con i pantaloni che gli risalgono e fanno vedere dei mutandoni contadini. Ecco, è un mondo, come dire, l'aristocrazia aveva conservato una tradizione, quella che lui chiama immortalità, tra virgolette. Questa tradizione finisce con l'ascesa della borghesia. A proposito del Gattopardo, lei lo definisce a un certo punto del suo libro romanzo della disperazione, rabbioso alla fine, quindi un clima ben diverso da quello più picchiano dell'inizio della sua carriera. Sì, anche perché è accaduto questo, che Gattopardo ha avuto la fortuna e la disgrazia di essere portato sugli schermi da Visconti. Il film di Visconti è un capolavoro, ma tuttavia ha dato una lettura di Gattopardo un po' particolare, perché si ricorderà che il film di Visconti finisce con il principe che avverte la morte. L'ultimo capitolo del Gattopardo non rientra dentro la trama del film di Visconti, ma l'ultimo capitolo della trama è la chiave di lettura di tutto il romanzo, perché lì c'è il problema di Angelica che ha rinnegato il padre e alla fine si ricrede e fa tutta una serie di operazioni che hanno a che fare con il finale. La figlia Concetta alla fine scopre di avere torto lei. Angelica è quella che fa fuori tutta la tradizione della famiglia del principe, ma la cosa interessante è che quando Concetta avverte di avere sbagliato tutto, butta la pelliccia del cane, cioè di Bendicò, dalla finestra, perché non riesce più a tollerare il ricordo del padre e i rimorsi che lei ha. Questa pelliccia per un attimo si ricompone nell'aria e forma il gatto. Il quale Gattopardo, che è l'emblema della famiglia, fa un gesto impertinente. Ecco, nessuno si è mai chiesto che razza di gesto fosse questo. E allora bisogna stare attenti alle parole, perché dice Lampedusa che la pelliccia è una massa di cenere. Da questa massa di cenere viene fuori Gattopardo, fa il gesto impertinente e torna a cenere. È una citazione dantesca che riguarda Vanni Fucci, che risorge dalla cenere e poi di nuovo torna a cenere. A proposito della trasposizione cinematografica, una delle sorprese di questo suo libro è la storia relativa al tentativo che fece Mario Soldati appunto di trasformare in film questo libro. Lo lesse attentamente, trovò molti collegamenti con Proust. Ecco, che cosa impedì a Soldati di andare avanti e come sarebbe stata la trasposizione di Soldati rispetto a quella di Visconti? Una storia assolutamente nuova, cioè nessuno sapeva di questo precedente di Soldati, tutti pensavano che la vicenda cinematografica di Gattopardo cominciasse e finisse con Visconti, ma prima che a Visconti la casa cinematografica si era rivolta a Mario Soldati. Mario Soldati lesse attentamente il romanzo e io analizzo tutte le annotazioni che Soldati prese e lui capì benissimo di trovarsi davanti a un capolavoro, rimase affascinato, leggeva il romanzo del Gattopardo, lo leggeva da due punti di vista, c'era un punto di vista che lo riportava a Proust e un altro che lo riportava a Guerra e Pace, e quindi erano queste le due ottiche, se non che si rende conto che lui non capiva il mondo siciliano. Ci sono degli appunti, intanto sulla lingua, alcune parole, per esempio Lupara. Ecco, Lupara, lui si chiede, saranno forse delle coltellate? Ecco, la parola gli sfuggiva, ma gli sfuggiva anche la mentalità siciliana, lui che era piemontese e che prendeva le parti dei piemontesi contro i siciliani. E a un certo punto capisce che non può andare avanti e lui stesso rinuncia. Però c'è una cosa divertente. L'altro personaggio, cioè il personaggio che di più lo affascinava nel Gattopardo, era appunto Sedara, ma lui si rifiuta di chiamarlo Sedara, lo chiama costantemente Zappulla e non è un lapsus, lo fa a ben vedere, perché il Sedara è il neoricco, è il frutto di una trasformazione sociale, politica, tutte le cose negative che accadono solo dopo appunto l'arrivo di Garibaldi, e lui associa questa figura di siciliano un po' perverso a quella di Zappulla, che era un produttore cinematografico di Catania che gli aveva commissionato un film e non pagò né gli attori e neppure il regista, e pare che fosse una cosa abbastanza abituale. E allora lui identifica il nuovo Sedara nella figura di Zappulla. E forse questo gli bloccò. Sì, anche questo gli bloccò la mano, diciamo, e lì si fermò. Grazie a Salvatore, grazie Silvano Nigro, buona domenica. Anche a lei, grazie. Grazie mille. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Veniamo adesso agli anni contemporanei. Parliamo dell'Italia e di alcuni suoi problemi, problemi con i quali magari continuiamo ancora a fare i conti. Il primo è l'Alitalia, di cui ci parla Gianni Dragoni nel libro Capitani Coraggiosi, 20 cavalieri che hanno privatizzato l'Alitalia e fondato il paese. Il libro è pubblicato da Chiare Lettere, 302 pagine, 16,60 euro. L'autore è un giornalista del Sole 24 Ore, il quotidiano edito dallo stesso editore di questa radio, e in particolare Dragoni e ci parla del processo di privatizzazione di quella compagnia. La tesi di Dragoni è netta, egli giudica infatti la privatizzazione come un pessimo affare per il paese e per i contribuenti, che avrebbero avuto tutto da guadagnare dalla soluzione che invece fu respinta, quella di vendere la compagnia a Air France. Vi ricorderete come andò a finire: il governo, che ancora non era stato neanche costituito, di Silvio Berlusconi si mise di traverso, e poi come presidente del Consiglio Berlusconi organizzò la soluzione alternativa affidata a un gruppo di imprenditori da lui definiti patrioti, che diedero vita alla CAI, la nuova società di trasporto aereo. E nel libro di Dragoni troviamo la storia di tutta quella vicenda e i ritratti di quegli imprenditori, tra i quali il Gotha dell'imprenditoria e del capitalismo italiano. È una vicenda che, secondo Dragoni, rappresenta una pagina esemplare di un certo tipo di capitalismo italiano, quello che Dragoni definisce il capitalismo di relazioni fragile e autoreferenziale, un sistema ingessato che è all'origine degli scarsi investimenti in tecnologia e ricerca, della bassa crescita delle imprese, con il conseguente aumento della disoccupazione, soprattutto tra i giovani. Una miscela che, conclude, provoca impoverimento e rassegnazione. Poche settimane fa abbiamo ricordato la pagina che è stata definita di Mani Pulite, di cui è ricorso il ventennale dell'inizio, e allora in questa occasione vi voglio ricordare alcuni libri che sono stati pubblicati e ripubblicati e che danno delle letture differenti di quella pagina. Cominciamo dal libro di Gianni Barbaceto, Peter Gomez e Marco Travaglio, che si intitola Mani Pulite, pubblicato da Chiare Lettere, 882 pagine, 19,60 euro. Questo è il libro del 2002, che naturalmente sta molto dalla parte dei magistrati e per questo è molto apprezzato nell'introduzione a questa edizione di Pier Camillo Davigo, che, come ricorderete, fu uno dei magistrati del pool. Davigo osserva nel suo scritto che il racconto dei fatti, ricostruiti con certosina pazienza e con la maestria che contraddistingue gli autori, spazza via le sciocchezze e le menzogne che per anni sono state divulgate dai mezzi di informazione. E segue poi nell'edizione nuova del libro un postscriptum con la storia degli ultimi 10 anni. Un altro protagonista di quegli anni è Gherardo Colombo, anche lui magistrato del pool di Mani Pulite, ora uscito dalla magistratura, che si fa intervistare da Franco Marzoli nel libro Farla Franca, la legge è uguale per tutti, punto interrogativo. Il libro è pubblicato da Longanesi, 286 pagine, 13,90 euro. E invece un libro che la pensa in modo diametralmente opposto è quello di Tiziana Maiolo, intitolato Tangentopoli, pubblicato da Rubbettino, 194 pagine, 14 euro. Tiziana Maiolo rovescia nel suo libro le denunce dei sostenitori dei magistrati, secondo i quali appunto ci sarebbe stata una interpretazione interessata di quegli anni. Anzi, scrive Maiolo che quella di Mani Pulite è una storia imbellettata e occorre superare un certo imbarazzo per togliervi un bel po' della cipria che l'ha conciata storia di legalità, giustizia, pulizia. È giunta l'ora di andare a toccare il nervo scoperto non solo del carattere politico delle intera operazione, ma anche delle colossali anomalie procedurali e anticostituzionali che l'hanno consentita. E Maiolo pone la sua analisi, non appelli sulla lingua, interpretando quella vicenda come uno scontro politico molto duro, che la riassume così. La storia potrebbe anche essere raccontata in questo modo: all'inizio degli anni 90 un gruppo di pubblici ministeri di Milano ha sferrato un attacco micidiale alla classe politica di governo, con la complicità di una parte del mondo produttivo proprietaria di grandi quotidiani, della Chiesa e di un partito, allo scopo di attuare un ricambio politico. E il libro poi sviluppa questa tesi collegando tutte le vicende giudiziarie con l'evoluzione politica di quegli anni, scavando nella storia professionale di alcuni dei protagonisti di quelle vicende a partire da Antonio Di Pietro, e sottolineando le grandi responsabilità del settore dell'informazione e anche sottolineando alcune strane differenziazioni nel trattamento di alcuni imputati rispetto ad altri. Insomma, questa è una chiave di lettura molto diversa e perciò meritevole di attenzione per alimentare un dibattito di cui abbiamo bisogno, sia per evitare che la corruzione dilaghi, sia per ricostruire con serenità un tratto controverso della storia d'Italia. Passiamo a un altro tema che tiene sempre desta l'attenzione di tutti, ed è la scuola, e diamo la parola a un'insegnante che è andata in pensione dopo 40 anni di servizio come la più anziana maestra in servizio d'Italia, Gisella Donati, che ha pubblicato La scuola è bella con Rizzoli, 166 pagine, 16 euro. Nel 2008 i suoi bambini di Roma si rivolsero al ministero perché la maestra potesse rimanere al suo posto per completare il ciclo di studi. Ne seguì a quella lettera una telefonata del ministro, che all'epoca era Maria Stella Gelmini, e da questa vicenda Gisella Donati coglie lo spunto per raccontare la propria vita da maestra fin dai primi anni in Sardegna, dove l'autrice doveva raggiungere la scuola abbandonando l'automobile e poi proseguendo su in groppa un asino. Ne emerge un quadro appassionato e un'analisi interessante su come insegnare, riassunta per esempio nelle righe che vi propongo. L'esperienza mi ha insegnato che un insegnante deve sempre fissare degli obiettivi molto alti per i suoi studenti e deve fare in modo che le sue strategie siano efficaci, non magiche né misteriose. Uno studioso americano giunge alla conclusione che insegna bene chi ha una personalità da leader. Al contrario di quanto generalmente avviene nella nostra scuola, dove il carisma di un insegnante viene molto spesso considerato un elemento negativo e non sempre si capisce il perché. Infatti, se per essere un bravo maestro sono necessarie doti come carisma, affettuosità, metodo, preparazione e interesse all'apprendimento, mi domando, non sono forse queste le qualità di un leader? E allora, come si fa a non ritenere un bene per la scuola un docente impegnato nel lavoro in cui crede, che dimostri nel suo ambiente sicurezza e professionalità, che all'interno della classe sia persona autorevole e che nello stesso tempo sia in grado di insegnare un metodo di lavoro che resterà per sempre patrimonio degli alunni. E a proposito di insegnamento, voglio segnalare il libro curato da Vito Volpe per Franco Angeli, Stranieri per apprendere, la formazione per l'inserimento lavorativo, 126 pagine, 14 euro, perché qui, al di là del titolo tecnico, si parla di un'esperienza di grande successo a Trento per integrare i lavoratori stranieri attraverso l'apprendimento dell'italiano con tecniche e pratiche che si sono rivelate di particolare efficacia. Prima di concludere ricordo che a Pordenone ieri è iniziata la 18ª edizione di Dedica Festival. Quest'anno l'ospite è Wole Soyinka, lo scrittore nigeriano di lingua inglese, premio Nobel per la letteratura 1986, che ieri è stato a Pordenone e che domani riceverà un'onorificenza importante nel municipio di Pordenone. Il festival dura fino al 24 marzo con spettacoli e incontri ispirati alle poesie e all'opera del poeta. E a questo punto il confettino. Un libro è il regalo per il bimbo protagonista di Sorpresa di Isol, che è un'autrice e illustratrice argentina. Il libro è pubblicato da Logos, 14 euro, tradotto da Fabio Regattin. La scrittrice ha un tratto di illustrazione molto bello e sicuramente ne fa una delle più apprezzate e premiate illustratrici di libri per bambini, come conferma un altro libro uscito nella stessa serie, con lo stesso prezzo e lo stesso traduttore, La bella Griselda. E con questo ringrazio Luca Cremanese in redazione, Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.